Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Mi spiace, ho sfatto pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutte le ragazze all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché? Io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava e era contro di me. Io non ero ancora suo ragazzo, sorreggeva a me. Come gelosire per una notte con un mare venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Un bel immaginati che un giorno o l'altro avrebbe andato via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Hai per soldi soccato sul corpo, non certo sul corpo. Lei mi amava, mi odiava e era contro di me. Già soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo il mare venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal lezzo io ammazzai se la guardai, sembrava un angelo e mi diceva sul suo corpo e mi donava la socca e mi diceva solo tua, ma di pietra io restai. Sommarso superviso da sommando la latte.